Si avvicina il 28 settembre, che è la giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito. E le iniziative che abbiamo in ballo sono varie e ve ne racconto alcune. Partiamo dalla guida all'interruzione volontaria di gravidanza a Bologna e provincia. È una guida che scriviamo da tanto tempo e il 1 settembre abbiamo pubblicato un nuovo aggiornamento. La guida è uno strumento pensato e realizzato non solo per tutte le persone che vogliono abortire, ma anche per chi accompagna l'aborto, perché troppo spesso le informazioni sono parziali o difficili da reperire e questo è ovviamente un ulteriore ostacolo all'accesso all'IVG. Da quest'anno abbiamo messo anche degli specchietti con indicazioni specifiche per magari per le persone grasse, per le persone trans, per le persone con permesso di soggiorno o irregolarmente soggiornanti o per le fuorisede. Un'altra iniziativa che voglio segnalare è quella della nascita della newsletter Piena, voce pratiche per la giustizia sessuale e riproduttiva. È una newsletter realizzata in collaborazione con altre collettive italiane che si occupano di aborto. Aborto in pillole, Canisciun FS, obiezione respinta. La newsletter nasce per riflettere insieme sull'erosione dei diritti sessuali e riproduttivi e gli ostacoli per l'accesso all'IVG e all'autodeterminazione in senso più generale. Ci si iscrive seguendo i link nei canali social delle collettive oppure sul nostro blog, insieme appunto alla guida aggiornata di qui sopra, potete trovare anche i link per iscrivervi alla newsletter. Passando invece più al locale, ci sono delle iniziative a Bologna attorno al 28 settembre. Segnaliamo che il 26 settembre la Mala Educación Collettivo Amico fa un dibattito all'Estrevagario sempre su aborto. Poi ci saranno anche altre iniziative legate al 28, come per esempio delle attività più performative di Luna di Meno, e noi nello specifico il 27 settembre vi invitiamo alle 17:30 al Fondo Comini, dove facciamo un laboratorio e, partendo diciamo da pregiudizi, stereotipi, esperienze, desideri, rivendicazioni politiche, facciamo più un laboratorio orizzontale per affrontare insieme il tema dell'aborto in tutte le sue sfaccettature. Invece il 28 settembre specificatamente convergiamo tutte quante al Disability Pride. Disability Pride che attraverserà le strade cittadine e noi insieme alle compagne di Luna di Meno andiamo appunto a sostenere questa iniziativa molto importante e cerchiamo di confluire lì con ovviamente i nostri temi, ricordando che al contrario della narrazione abilista che infantilizza le persone disabili, queste persone hanno diritto di autodeterminarsi, di esprimere il proprio consenso, di avere servizi sanitari accessibili e di non essere colpite da stigma qualunque scelta facciano in merito a maternità o aborto. Sempre rimanendo un po' sul locale, tra le varie rivendicazioni, insomma, battaglie che portiamo avanti in questo periodo, siamo particolarmente concentrate sulle linee di indirizzo, sulle nuove linee, le ultime linee di indirizzo e la sua attuazione, in particolare l'estensione dell'aborto farmacologico in tutti i consultori dell'Emilia Romagna e la possibilità anche di fare una parte dell'aborto farmacologico a casa, cioè prendere la seconda pillola a casa. Questa è una possibilità davvero che estende di tantissimo l'accesso ai IVG e diciamo si viene incontro a tantissimi ostacoli. In generale vogliamo anche ricordare che per noi parlare di aborto si inserisce sempre in un contesto transnazionale, in un contesto di solidarietà internazionale, e in questo periodo in cui c'è un genocidio in corso e tantissime altre guerre in corso, basta pensare alla popolazione ucraina, alla popolazione sudanese, congolese e così via, è ancora più forte l'esigenza di dire che il 28 settembre è una giornata transnazionale in cui l'autodeterminazione dei corpi, le questioni legate alla salute riproduttiva, ovviamente in contesti di guerra, sono ovviamente più specifiche, dobbiamo ricordarle noi nelle nostre piazze, che fortunatamente non sono sotto le bombe. Quindi, con uno spirito fortemente transnazionale e internazionalista, vi invitiamo a seguire le iniziative attorno al 28 settembre a Bologna. Ci vediamo comunque al Disability Pride, ai vari laboratori, e buona giornata di lotta a tutte.